convocato anche oggi alla mia età. Oh. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma voi come lo risolvereste il caso Catania? Quali sanzioni usereste nei confronti dei probabili autori di questi reati? Non c'è niente da fare, l'estate è il tempo del mercato, il mercato dei giocatori, e poi ne parleremo, cioè il calciomercato, ma c'è anche il mercato delle partite, il mercato delle scommesse, insomma, grande supermarket tutti convocati. 800 24 00 24, Giorgio De Luca il nostro autore, Giovanni Melchiorre in regia, Gianmarco Feronato, no, in regia c'è Gianmarco Feronato, Giovanni Melchiorre in redazione. Comunque, tanto per cominciare voglio farvi sentire che cosa ha detto il questore di Catania Cardona a proposito di questa porcata che sta venendo fuori su Catania, appunto. Ad oggi escludo il coinvolgimento delle società proprietarie del cartellino dei giocatori che abbiamo citato nei giorni scorsi, quindi Livorno, Varese, Ternana, come società ad oggi non ci sono alcun elementi diciamo validi sotto l'aspetto processuale. Poi è chiaro, come dicevamo prima, che l'attività investigativa può portare ovviamente a filoni interessanti dove poi vedremo quello che succederà. Quindi praticamente Pulvirenti e Dell'Icari si sarebbero comprati soltanto un pugno di difensori qua e là, e in questo modo avrebbero truccato 5 partite permettendo a Catania di salvarsi. Che poi io mi domando cosa ci voglia, un vecchio discorso, cosa ci voglia per truccare una partita di pallone, se sia sufficiente comprare un pugno di difensori, a quanto pare sì, magari giocando 13 contro 9 alla fine, oppure se serva dell'altro e se effettivamente non si possa nemmeno parlare di responsabilità dei club di appartenenza di questi individui. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Benissimo, tu? Tutto bene. Tutto bene. Molto bene. Grande supermarket, eh? Grande supermarket di giocatori, scommesse, calciomercato. L'abbiamo aperto, lo terremo aperto per tutta l'estate. 800 24 00 24, chi vuole interviene. Voglio farti sentire cosa ha detto Tavecchio sempre sulla vicenda di Catania. Io sono costernato da questi fatti, bisogna stroncarli e saremo inflessibili. Alla FGC si costituisce sempre parte lesa, l'abbiamo fatto a Catanzaro, lo faremo qui. Io ho apprezzato molto le parole del Presidente Abodi sull'argomento. Bisogna che prendiate atto che il calcio è l'unico sport al mondo che raccoglie miliardi di soggetti. Quindi ancora non è nato quello che è capace di distruggere il calcio. E anche miliardi di soldi per Luigi. Subito a quello, ma le due cose, guarda, vanno sai, pensa, questa è la radio della Confindustria, noi sappiamo bene che spesso poi dietro ai valori economici ci sono le vite delle persone, ci sono le passioni, quindi adesso non voglio fare un discorso così esistenzialista un po' da quattro soldi, però è questo, insomma, il calcio sviluppa grandissimo business perché sviluppa grandissime passioni, grandissime emozioni, e quindi da un punto di vista proprio di logica commerciale funziona e funziona benissimo, e questo insieme di elementi, di passioni da una parte e di indotto economico lo rende fortissimo ma anche molto delicato, per cui quando poi arrivano dei soggetti che vanno, ovviamente con tutte le presunzioni di innocenza del caso, vanno a modificare questi meccanismi, devono essere responsabili, ovviamente se verranno riconosciuti colpevoli devono essere responsabili, sì, e sì. Poi ovviamente è chiaro che insomma è lapalissiano dire che se qualcuno ha comprato c'è anche qualcuno che ha venduto, certo. Quindi poi le responsabilità ci possono essere anche da quel punto di vista. Ah certo, su questo non c'è dubbio. Intanto questa sera gioca l'Under 21 con l'Inghilterra, come ben sai. Anche qui, guarda un po', c'è rischio di biscotto, perché l'Italia deve battere l'Inghilterra per passare, però se Portogallo e la solita Svezia pareggiano, ciao, mi stavo facendo arrestare in Portogallo nel 2004 perché c'era Foroni scatenato, che era la mia prima esperienza da inviato, e quindi voleva tutti questi pezzi un po' alternativi, e in effetti lì il tema era quello sicuramente del biscotto tra Svezia e Danimarca. E i due alberghi di Svezia e Danimarca a Porto erano distanti 200 metri uno dall'altro ed erano tutti e due molto alti, per cui dalla finestra di uno si vedeva l'altro, e quindi volevo fare questo pezzo tipo Iene, e per poco non ho rischiato veramente l'arresto. A un certo punto c'è stata un'ANSA, anzi esprimiamo ovviamente vicinanza in questo momento ai colleghi dell'ANSA, visti i problemi, e a un certo punto è venuto fuori quest'ANSA nella quale si diceva: giornalista italiano fermato nel rizzo della Spezia con un pacco sospetto di biscotti. E il mio grande amico Gianni Federico, che saluto, che avevo avuto dei tempi di stream, mi telefonò con l'accento calabrese dicendo: sono fiero di te, che cosa hai combinato, una cosa fantastica. Però in realtà quella volta lì ci avevamo beccato, tutti fighi, ma alla fine il biscotto l'hanno fatto. Altre volte, per esempio nell'Europeo del 2012, ci aspettavamo, qualcuno si aspettava che la Spagna potesse pareggiare invece che vincere contro la Croazia l'ultima partita, perché sarebbero passate tutte e due, non è successo. Poi vediamo stasera come si comporta. Innanzitutto l'Italia contro l'Inghilterra, ma poi Portogallo e Svezia. Se quella è X, allora per noi, anche battendo l'Inghilterra, sarebbe eliminazione di Biagio. Poi il traffico. Io penso che non finirà in pareggio di là, è la mia convinzione, poi magari mi sbaglio. Se dovesse essere così, finirà perché la partita andrà in maniera naturale verso il pareggio. Tutti convocati. Convocati. Il treno delle 11. Era sicuro. Mo è solo il treno delle 3. Non dico niente. Il treno delle 4. Poi il treno delle 33. Direttissimo, è diretto quello proprio. Il treno delle 3 e 33. Un treno alle 15. E l'altro? Ce ne sono altri due di treni, però. Ah. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va, con le paure e le incertezze di inganni. Stiamo lavorando sul treno di... su un treno di venerdì. Alle 13 parto. Alle 13. Ho fatto questa scelta. Quello delle 15 niente? La vita come il treno va. Maurizio Crosetti, che treno prendiamo? Ma guarda, il treno dei desideri, quello di Paolo Conte, desiderio di non essere in un mondo sportivo simile o in un mondo simile tout court. Cioè, perché però veramente usare l'orario ferroviario come modello di codice criptato, considerando come funzionano i treni anche con l'alta velocità, diciamolo, bisogna veramente essere dei fenomeni. È un tentativo già votato al naufragio. Pierluigi, come sai, oggi Maurizio Crosetti su Repubblica ha ripercorso vita e miracoli del ragionier Antonino Polvirenti, uno che ha capito tutto. Sei il più furbo di tutti fino a quando non ti beccano. Sì, non mi sembra la sintesi perfetta, insomma, la furbizia è caratteristica, lo è stata sempre, del tratto umano di questo presidente, che ha fatto anche delle cose importanti dal punto di vista strettamente calcistico. Nel senso, c'è un momento che deve essere ricordato per onestà intellettuale, il Catania ha trovato grandissimi giocatori, tra l'altro con lo Monaco, che è altro personaggio in qualche modo coinvolto in questa vicenda. Quindi poi ci sono stati anche dei meriti, diciamo, di talent scout, di struttura societaria a un certo punto, però insomma poi chiaramente tutto questo diventa niente, o diventa pochissimo di fronte alla gravità delle accuse, che insomma sono indiscutibili, e perché ovviamente bisognerà poi aspettare il lavoro dei magistrati per capire se verranno confermate, ma insomma i segnali sono forti. Devo dire che mi sono un po' incartato con questa cosa dei treni, ho capito che c'erano i numeri di maglia, sì. Però queste intercettazioni un po' mi hanno turbato. Ti hanno turbato? È abbastanza tutti questi treni, sì, 23, quello delle 11. Quello delle 11, quello delle 14 e poi ce ne sono altri due, poi c'è il direttissimo. Maurizio Crosetti, però nel calcio dell'iperuranio mi stupisce sempre l'artigianalità, non so se esiste questa parola. Ma perché era irresistibile evidentemente la metafora del binario morto alla fine. Ma di essere a pagare qualche giocatore. Sono personaggi che appartengono alla generazione che ancora usava i treni, cioè, perché ancora si usano, lo dico purtroppo per i pendolari costretti a farlo, spesso in condizioni assurde anche dal punto di vista economico, perché tanto apriamo la parentesi, ma siamo pur sempre siamo una testata di ampio respiro anche socio-economico culturale, e da quando c'è una cosa magnifica che si chiama alta velocità tra Torino e Milano, molti altri treni che di alta velocità non avevano neanche troppo bisogno, i treni dei pendolari sono in grande difficoltà, cancellati in grande difficoltà, e la gente è costretta quindi a spendere un sacco di soldi, e per carità occorrerebbe un maggiore equilibrio, però appunto tornando alla tua domanda, che si sia scelto al di là delle battute un mezzo come il treno racconta anche forse l'età anagrafica e la formazione umana di chi ha fatto questa scelta. Cioè, oggi mai nessun giovane, spero, comprerebbe le partite in questo modo, ammesso che lo abbiano fatto, ma certamente nessuno parlerebbe di treno. Il treno è come, non lo so, la moca per fare il caffè, no, non proprio, ma insomma, mi ha colpito molto questa scelta anche linguistica, concettuale, non soltanto, al di là che poi però diventa, come diceva Pierluigi, un po' straniante ascoltare, mi sembra che abbiano fatto anche un gran pasticcio, cioè nemmeno Totò e Peppino si sarebbero fatti scoprire, ma quando è possibile mai far credere anche un eventuale personaggio che ti sta intercettando che stai proprio parlando dei treni, sì, il sì, binario, sì, e la parcella, il magistrato, cioè, se dicevano chiaramente abbiamo comprato il numero 15 facciamo più bella figura, sì, e secondo me si risparmiavano anche un sacco di fatica per quei rari, credo, neuroni che dovevano far lavorare per arrivare a se è stato così, ma io non credo, naturalmente noi non crediamo affatto che sia andata così, sempre perché siamo una radio di largo respiro, quindi insomma anche capace di guardare oltre lo stretto territorio del calcio e del campo da gioco, c'è anche un elemento da fare per l'ennesima volta sull'importanza delle intercettazioni, che sono chiaramente uno strumento che soprattutto dai media deve essere utilizzato col massimo della cautela, perché poi spesso al telefono magari uno fa la battuta, dice una cosa che se poi viene trascritta su un foglio di carta, letta come letta, può sembrare inopportuna o addirittura illegale, però ecco, insomma, guarda, anche qui alla fine l'impulso decisivo in questa inchiesta mi pare che venga da lì, viene da queste intercettazioni, viene dalla capacità, è chiaro che sono una violazione da un certo punto di vista, no, di certi spazi di libertà delle persone e di una certa idea di stato del diritto, però finché lo utilizzano i magistrati e le forze dell'ordine ordine per prevenire il crimine, ovviamente hanno pienamente il diritto, sì, a utilizzarlo, perché senza queste intercettazioni non credo che si sarebbero trovati. Oggi, comunque, Piero, oggi questore di Catania ha detto che è da escludere il coinvolgimento diretto delle società di appartenenza dei presunti giocatori comprati. Mi domando, perché Catania credo che sia più di là che di qua. Catania, io direi tendenzialmente di sì. Ma mi domando e chiedo anche Maurizio Cosetti, ma è così facile comprare una partita di pallone? Cioè vai lì, paghi un paio di difensori, il treno delle 15, il treno delle 16 e vinci 5 partite. Sì, è sconcertante quanto sia teoricamente facile, anche se mi pare che poi li stiano beccando, forse non tutti, perché poi l'altro pensiero agghiacciante è, sembra che ogni giorno ne salti fuori una. Ma è la punta dell'iceberg o è l'iceberg tutto questo? Il sospetto c'è, indubbiamente è facile evidentemente, perché specialmente nelle serie inferiori, come sembra, come ci auguriamo, anzi non ce l'auguriamo perché non è meno grave se sono serie inferiori, però c'è meno visibilità, meno controllo, non c'è la televisione, però davvero fa impressione quanti potenziali comprabili ci siano su piazza. Mi viene in mente la battuta che faceva un mio amico tanti anni fa, dice: io sono io sono comprabilissimo, il problema è che nessuno mi vuole comprare. È una legge del mercato. Ma Maurizio, della domanda, pensavo, lo dicevo anche ieri, pensavo a come è cambiato tutto e come in qualche modo adesso ho fatto il discorso sulle, sulle serie minori. È chiaro che l'onestà intellettuale, i principi, diciamo, deontologici di correttezza devono valere a qualsiasi livello e valevano anche nel calcio di un'altra volta, ma io ho come la sensazione che veramente questo gioco sia cresciuto tantissimo con le televisioni, con gli interessi che ci sono dietro, quelli degli scommettitori, quelli economici attorno al calcio, ed è cambiato tutto, perché tante volte, insomma, nelle scene, no, nei dopo scena ci sono vecchi calciatori che ti raccontano leggende metropolitane di partite, di pareggi fissati, insomma, aderisco all'invito di Massimo Mauro di ieri di non fare le verginelle. La storia del calcio è piena di partite che puzzano, che puzzicchiano, o in qualche caso addirittura proprio di leggende metropolitane su pareggi concordati o cose del genere, però adesso è un'altra dimensione, adesso è veramente un'altra dimensione. Mi viene in mente, sono d'accordo, pensando al ciclismo, all'epoca dei grandi, dei leggendari, Coppi, Bartali, tutti sanno, gli appassionati di ciclismo, lo sanno perfettamente quanto si facessero di stricnina, la bomba nella borraccia, però indubbiamente c'era meno visibilità e tutto sommato c'era una specie di accordo tra tutti, perché quella era la benzina dei ciclisti, no? E io credo che valga anche per la corruzione. Il problema è che quando hai più occhi puntati su di te, e secondo me molti occhi sono occhi positivi, perché non lo dico solo perché Pierluigi è un nome di televisione, ma perché comunque più c'è controllo, più ci sono occhi fisici o anche elettronici, più in teoria si dovrebbe stare sull'avviso e rispettare la legge, un po' il discorso dell'autovelox in fondo, no? Da quando c'è l'autovelox qualche comune ne abusa, ma indubbiamente sono diminuiti i pazzi che attraversano i centri abitati ai 100 all'ora. E che sono ancora troppi i pazzi che attraversano i centri abitati ai 100 all'ora, come se del calcio, i centri abitati del calcio, come se non ci fossero questi autovelox, invece ci sono, anche se poi alla fine credo che la magistratura faccia e sia costretta a fare anche il lavoro che non dovrebbe fare lei, nel senso che la classe dirigente del nostro sport, vorrei dire il nostro calcio solo, ma dico anche nel nostro sport e qualche volta anche la nostra classe politica, non mi pare che si sia tanto scaldata per evitare questo. Certe frasi da parte delle istituzioni arrivano quasi sempre il giorno dopo, il giorno stesso, sono frasi democristiane in senso buono, in senso vecchio, sì, perché sì, assolvono, perché sono piene di cautele, e il presidente del CONI fa finta di indignarsi, magari si indigna sul serio il giorno dopo. Tavecchio lo stesso, ma Tavecchio è stato certamente non in disaccordo con quello che, con la carriera di Pulvirenti, le persone che hanno sostenuto Pulvirenti al Consiglio federale. Beh, lo ricordi oggi, per non far nomi, tanto per non far nomi, sono quelli, sono Galliani, sono Lotito, e sono le stesse che hanno poi prodotto questa presidenza federale. Cioè, alla fine sempre lì si torna, non per essere fanatici, ma tutto questo dimostra che certamente non è colpa, la corruzione non è colpa dei capi del nostro calcio, ma sicuramente oggi io credo che i capi del nostro calcio siano inadeguati a gestire un momento di così grande emergenza. Ciao Maurizio, grazie. Ciao. Come sempre, grazie Maurizio. Ciao. Crosetti. Pier, stai lì, adesso abbiamo la borsa, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024, poi parliamo ovviamente anche di altro, parleremo di Fiorentina, parleremo della nuova Fiorentina di Paolo Sosa, parleremo di mercato, parleremo di tutto quanto si sta muovendo, non solo di mercato di malaffare. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Voglio ricordarvi subito una cosa. Allora, la settimana prossima e per tutta la settimana, quindi da lunedì fino a venerdì naturalmente, Radio 24 si trasferisce in massa all'Expo, ok? Noi compresi, saremo al padiglione Cibussa Italia, vi aspettiamo naturalmente lì tutti quanti. Giorgio da Prato, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi ragazzi. Ciao. Guarda, in questi giorni io non riesco a sentire le istituzioni federali, purtroppo compreso Abodi, che pure stimavo, senza che mi vengano veramente dei conati di vomito. Ma questa gente, diremo, faremo, radieremo, ma come fanno a essere credibili? Se vogliono essere credibili, comincino a radiare da stamattina, da ieri, ma non... quei giocatori per i quali è già acclarato che si sono venduti le partite. Quei giocatori stanno ancora giocando in Serie A, il signor Masiello sta ancora giocando in Serie A, il signor Mauri ci rappresenterà addirittura come capitano di una delle squadre in Champions League. Andatevi a vedere, si vadano a rileggere questa gente gli atti del processo sportivo di Mauri, con tutte le sospensioni di giudizio che ci sono state indecenti. Facciano quello se vogliono essere credibili, altrimenti per la gente che è un minimo informata, questa gente sono ridicoli e schifosi, non credibili. Giorgio, però c'è un problema che si chiama legge, che si chiama regolamento, cioè non può Abodi o Tavecchio o ci piace oppure no, o Malagò, prendere ad personam un provvedimento di questo tipo. Cioè non può dire quello è radiato, perché innanzitutto qui si tratta di compiere i dovuti accertamenti, no? E poi c'è, ci piaccia oppure no, ci sono delle sanzioni che sono previste su dei codici e su dei regolamenti. Sbaglio, Piero? Bene, continuano a non essere credibili. Sì, no, ma io non sto parlando di... Io sono d'accordo con quanto ha detto prima Crosetti, per carità. Però dobbiamo... No, io sono d'accordo, cioè, capisco perfettamente lo sfogo e sono d'accordo, lo condivido, però ci sono delle regole. Certo, non è che può Tavecchio dire ok, questo è radiato così perché mi va. C'è una giustizia sportiva e una giustizia ordinaria che è composta da uomini. Questi uomini applicano le regole e qualche volta sbagliano pure, perché così come sbagliano i giornalisti, sbagliano anche i giudici o magari gli avvocati sono molto bravi, gli avvocati della difesa. In assoluto sono d'accordo sul fatto che politicamente le istituzioni sportive debbano dare un messaggio che è di assolutamente nessuna tolleranza. Ieri Abodi ha detto non daremo tregua, e noi dovremo stare qui a controllare che non venga la tregua, perché è chiaro che l'impulso politico, l'humus, cioè il contesto complessivo nel quale si svolge un eventuale processo per un'inchiesta di questo tipo è anche legato appunto al tipo di clima che c'è, è positivo il tipo di contesto. Però poi non è che Abodi o Tavecchio che va lì e che emette la sentenza e che decide che ci sia messo una radiazione piuttosto che 6 mesi, piuttosto che un anno di qualifica. È la giustizia sportiva. No, è chiaro, è la giustizia sportiva sulla base di regolamenti scritti, quindi questo è, ci piace oppure no, poi vogliamo al solito dire dobbiamo cambiare le regole, le norme, va bene, facciamolo, però bisogna agire sulla base di quanto è previsto dai codici, ci piaccia oppure no. Roberto Trieste, buongiorno. Ciao, buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, siete veramente dei grandi. Grazie. È una trasmissione piacevolissima e bella da sentire. No, volevo fare una domanda, no? È possibile che questa inchiesta su Catania è potuta partire magari da una denuncia di un calciatore contattato per la combina, che poi ovviamente non ha detto di no, ecco, ad esempio il Catania. E poi un'altra cosa che secondo me sarebbe assurda, la responsabilità oggettiva delle varie società, ovviamente quelle che non sono, che poi si vedrà che non sono coinvolte, no? Perché sì, i giocatori disonesti, poi vedremo, che magari sono tipo a fine carriera, dicono mi prendo questi soldi, me ne frego della squadra, me ne frego anche della mia carriera perché tanto l'ho finita, ecco. Queste due cose qua. Sì, sul primo punto non saprei, cioè bisogna capire cosa emerge dall'inchiesta, cioè è inutile fare delle supposizioni, non so se possa essere partito da qualcuno che ha detto no alla gentile richiesta. Sul secondo punto, i rischi sono molti, ma vale anche ad esempio per il ciclismo, cioè il corridore che dice vabbè io rischio tanto che me ne frega, anche lì io ripeto, la mia posizione è quella della radiazione per chi commette illeciti di questo tipo, poi questa non è prevista, bisogna graduare le pene eccetera eccetera. Pier? Sì, no, sulla radiazione sono d'accordissimo. Il secondo tema è molto interessante, perché il secondo tema dice chi è il proprietario di una società, cioè, e l'eventuale faccio di nomi di squadre come il Latina, il Paternana, sono le squadre che sono state in qualche modo il Trapani tirate in ballo, sono parte lesa, direi, no? Hanno messo delle partite, verrà confermato tutto, che vediamo per la prima volta, sono parte lesa, sono parte civile, hanno perso delle partite perché qualcuno, ovviamente per verrà dimostrato se l'è perduto. Quindi, oggi, oggi la responsabilità diretta del, di quei club è stata esclusa dal questore di Catania. Proviamo a richiamare Pierluigi Pardo. Vediamo se la comunicazione è migliore. Intanto volterei pagina, mi faccio un grande piacere, ma poi ci torniamo su questi argomenti a vostro piacimento. 800 24 00 24. Saluto Giovanni Galli. Ciao Giovanni. Sì, ciao, come stai? Voi bene, grazie. Io avevo voglia di parlare invece un po' di Fiorentina con te. Dopo aver visto Paolo Sosa ieri, dopo averlo sentito parlare, è l'uomo giusto per il dopo Montella? E c'era l'esigenza di arrivare a un dopo Montella? Probabilmente non c'erano più i presupposti per rimanere con Montella. Qualcosa si era rotto, qualcosa si era incrinato, e rimettere i coach insieme per forza, sai bene che al primo scossone si rompono un'altra volta. Sì, sicuro. È meglio interrompere prima, no? Un rapporto che è già incrinato. Detto questo, credo che la Fiorentina in tutti questi anni difficilmente abbia sbagliato la scelta tecnica, forse non è mai capitato. Penso a Prandelli, penso a Mihajlovic, anche se ci sono stati dei risultati diversi, no? fra una gestione e l'altra, però voglio dire, ha scelto Prandelli, ha scelto Mihajlovic, ha scelto Montella, ha scelto adesso Paolo Sosa, per cui credo che sotto questo punto di vista questa scelta potrebbe essere una garanzia. Detto questo, andiamo al passo successivo. La Fiorentina ha iniziato 3 anni fa un progetto tecnico particolare, calcio elaborato, un calcio che ha un'identità ben precisa, che ha una sua fisionomia. Può piacere, non può piacere, però, comunque in 3 anni abbiamo portato a 3 quarti posti in campionato, una finale di Coppa Italia, una semifinale di Coppa Italia e una semifinale di Europa League. Credo che sia stato un risultato importante. Si vuol proseguire sulla stessa falsa riga? Bene, diciamo che Paolo Sosa ha dei vantaggi in questo momento, e cioè conosce il nostro campionato, perché tutte le sfumature, essendoci stato da calciatore, le conosce tutte. Conosce però anche il calcio internazionale, perché ha allenato in svariati posti in Europa, per cui è un conoscitore, ha cultura calcistica. Io credo che l'indirizzo così iniziale per questa nuova avventura sia positivo. Sì. Dopodiché non è facile ripercorrere e ottenere gli stessi risultati di Montella. No, però chiaro. Sai, Firenze è un po' particolare, no? Firenze, bisogna vedere anche la squadra che gli danno a Paolo Sosa, perché infatti, può andare, è una Firenze godereccia, Firenze gli piace giocare bene, gli piace vincere giocando bene, non gli torce il naso se vince giocando male, perché hai vinto 2-0, potevi vincere 3-0. Sì. È una città particolare che però si affeziona molto, no? ai suoi allenatori e ai suoi giocatori. Molto, ecco, spagnoleggiante in questo senso, molto spagnoleggiante. Assolutamente sì. Si è cambiato, perché appunto da una guida tecnica spagnola, no, oppure come filosofia spagnola, perché comunque c'era Masià, direttore tecnico, e Montella allenatore, si è passati a quella portoghese, perché è arrivato Pereira come direttore tecnico e Paolo Sosa come allenatore. Diciamo che siamo sulla stessa falsa riga, grazie. Sì, la filosofia più o meno è quella. Luigi, ci sei? Hai sentito Giovanni Galli? Condivisibile. Mi aspetto un gioco un po' più verticale. Ecco, credo che il contesto di Firenze sia quello. Giovanni lo conosce benissimo, e quindi chiaramente grandi pressioni. L'altro giorno ci ha chiamato una signora molto simpatica, Giudito, mi ricordo, 79 anni, che era arrabbiata perché si parla poco della Viola. Insomma, i fiorentini hanno questo amore incredibile per la maglia, per la squadra. È una città totalizzante anche dal punto di vista mediatico, delle radio cittadine, una delle città dove ci sono programmi dedicati alla squadra 365 giorni all'anno, quindi veramente ci sono le pressioni di una grande città, spesso senza avere i budget di una, sì, una grande città. Appunto, adesso si tratta di capire appunto che squadra daranno a Paolo Sosa, perché si continua a sentire in questi giorni di Salah che potrebbe andare via. Insomma, non vorrei che si trovasse per le mani una Fiorentina indebolita rispetto a quella che ha avuto Montella. Pierluigi, Giovanni Galli, vi chiedo un istante di pazienza, sentiamo il traffico, poi torniamo, chiudiamo il discorso sulla Fiorentina. Mi interessa anche capire da Giovanni Galli cosa ne pensa di Sarri al Napoli. Tutti convocati. Tutti convocati. Giovanni Galli, dicevamo, di Sarri si era parlato anche per la Fiorentina, poi ha preso un'altra autostrada, per rimanere in tema di viabilità, è andato verso Napoli, lì come lo vedi? Ma intanto io ho grande stima e devo dirti anche amicizia con Sarri, con Maurizio, perché qualche anno fa, nella mia esperienza del direttore sportivo a Verona, lo scelsi e lo portai con me a condividere con questa esperienza. Non andò benissimo, entrammo a dicembre, però non andò benissimo nel senso che avevamo altri obiettivi poi dopo per gli anni successivi, ma abbandonammo l'idea. Però ho avuto anche perciò modo di vederlo lavorare sul campo, lavorare con i ragazzi nello spogliatoio. È molto preparato, è un tecnico meticoloso, è un tecnico che prepara tutti i particolari, però ecco, cosa che è insolita un po', no? Nel nostro campionato, comunque riesce a dare una fisionomia alla sua squadra. Te vedi che c'è la mano dell'allenatore, te vedi che è una squadra organizzata, vedi che è una squadra che ha delle idee, poi le sviluppa. È logico che svilupparle ad Empoli, esatto, è possibile farlo a Empoli, ma bisogna farlo a Napoli con tutte le pressioni del caso, i giocatori del caso, contratti pesanti, i procuratori. Benissimo. E io ti dico però allo stesso modo, no? Se te riesci a sviluppare un prodotto con giocatori sicuramente di valore, che sono quelli dell'Empoli, e ti ha portato a quel risultato. Ma se te hai un materiale umano, un materiale tecnico con il quale riesci ad entrare in sintonia, io credo che il risultato sportivo poi sia decisamente molto superiore, visto l'organigramma di Napoli rispetto ad Empoli, no? Per cui io sono, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, non vado a vedere. Io credo che l'allenatore sia bravo, è un allenatore che comunque riesce a dialogare molto bene con i giocatori. Va, diciamo che è un po' un diesel, perché è la sua storia, dal Sorrento all'Alessandria, alla stessa Verona con me, perciò è a Empoli iniziò con 4 sconfitte nelle prime 6 giornate. Cioè è un tecnico che bisogna dargli il tempo di entrare in sintonia e in simbiosi. Tutto questo avviene, se Napoli ha pazienza, si troverà in mano un grandissimo allenatore. Questo Pierluigi potrebbe essere un problema, non so quanta pazienza questo abbiano. Può essere un problema, ma in generale qui siamo di fronte a un caso, nessuno ha la risposta, nel senso che siamo di fronte a un debuttante, non c'è una casistica legata a Sarri in una piazza importante come Napoli, è un debutto e quindi non sappiamo se ha carisma o se non ce l'ha. Il fatto che non abbia allenato mai una squadra come il Napoli non vuol dire che non abbia. Il mondo è pieno di gente che avrebbe avuto il talento per fare delle cose e non ha mai avuto l'opportunità di farla. Sulle qualità mi fido ciecamente di Giovanni Galli, e lo dice il campo e lo dicono anche i risultati. Quindi sicuramente arriva carico, e quindi secondo me anche con l'autostima a 1000, giustamente, perché ha fatto una grande stagione. Mi sembra una persona molto, molto autoironica e molto intelligente. E sicuramente la squadra gioca bene. È chiaro che le pressioni aumenteranno a dismisura, certo. Se ce la farà o non ce la farà, se avrà il carisma o se non ce la farà, ce lo dirà soltanto il tempo. Però è proprio molto semplice, cioè non c'è un precedente. No, è chiaro. Scusami, no, c'è un precedente ed è illustre. Arrigo Sacchi, bravo, perché Arrigo Sacchi addirittura la Serie A non l'aveva neanche mai allenata, perché lui era a Parma, arrivava dalla Serie B. riuscì comunque, ecco dove, quando io dico non c'è il precedente della carriera di Sarri, capito? Cioè, Sarri non ha allenato mai una squadra come il Napoli, quindi non sappiamo se avrà questa carisma. Il paragone con Sacchi, che non a caso è un suo grande sponsor, tra l'altro è un'ulteriore dimostrazione, insomma è un endorsement mica da poco, è un endorsement importante quello di Sacchi, è quello perfetto, perché vabbè, Giovanni l'ha vissuta, no? Il carisma lo vedi subito, anche se uno non ha allenato il Real Madrid. Certo. Difatti quando dicevo se riesce, perché è lo stesso problema che incontrò Arrigo Sacchi quando arrivò al Milan, arrivò e trovò una squadra che comunque aveva già una storia alle spalle, i calciatori avevano già fatto dei mondiali, avevano già fatto campionati alle spalle. Ecco, e entrare in quello spogliatoio cercando di portare le sue idee di calcio, la sua filosofia, la partecipazione del gruppo, ecco, questo è stato fondamentale per i risultati e i successi del Milan negli anni successivi. Ecco, l'augurio è quello, perché penso che Maurizio abbia tantissime qualità, l'unico difetto, fuma troppo. Quello è un difetto, purtroppo, che glielo leviamo, Giovanni. No, ma poi ma quello che mi preoccupa di più è la pazienza della società, perché all'epoca, e tu l'hai vissuto dall'interno, c'è stato il momento in cui Berlusconi scese in campo in quel caso e difese Arrigo Sacchi, ti ricordi lo spagnolo, eccetera. Lo stesso ha fatto De Laurentiis, perché è lui che ha scelto Sarri. Ma vediamo le prime difficoltà, però. Magari aveva altre priorità, no? Gli avranno detto non accettiamo, però comunque il colloquio, l'incontro l'ha fatto lui. È stato lui a volere. Questo è importante. Questo che è molto importante. Grazie Giovanni, buon lavoro. Ciao, ciao Giovanni Galli. Questo è importantissimo, Carlo, secondo me, tutta la campagna acquisire Napoli, nel senso, poi magari sbaglierà le scelte, però De Laurentiis, se si dice si sta disimpegnando, sta disinvestendo, dal punto di vista della sua presenza, del suo protagonismo nel mercato, della scelta dell'allenatore, in realtà sta facendo di più di prima, cioè sta prendendo un ruolo ancora più centrale, quindi eventuali trionfi, ma anche eventuali fallimenti verrebbero ascritti dal punto di vista statico molto di più a lui che nel passato. Si è preso tutte le responsabilità delle scelte. Perché non sta, secondo me non sta disinvestendo, non sta facendo cassa, sta facendo delle scelte molto diverse e ci sta mettendo la faccia. Poi se queste scelte saranno giuste o no, questo ce lo dirà soltanto il tempo. Ma io non vedo un Napoli con un De Laurentiis a marzo. No, assolutamente. Napoli, De Laurentiis, protagonista. Anzi, hai ragione, è più centrale di prima. Cioè, si è preso in prima persona la responsabilità della scelta dell'allenatore, si sta prendendo in prima persona. Comunque, adesso vediamo cosa succede sul mercato, perché continuano le voci su Higuain, eccetera, eccetera. Al momento possiamo dire che la situazione è questa. Max Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e complimenti per come affrontate i temi del calcio. Grazie. Io volevo fare solo una constatazione, una considerazione. Io mi domando e vi domando quale sia la credibilità residua del calcio oggi, e mi riferisco a Catania solo come ultimo di una serie di episodi che hanno costellato gli ultimi 4-5 anni. E questa è una constatazione. La domanda è che cosa si deve fare, che cosa possiamo fare, chi e come si può risolvere questa questione, perché ho la netta sensazione che questo è uno sport fantastico, ma oggi di sport ci sia veramente molto molto molto poco. Grazie tanto per l'opportunità, vi ascolto. A lei. Patrimoniali. Tu hai truccato la partita, hai creato un danno enorme a una quantità di soggetti, lo dicevamo ieri, dagli spettatori che hanno comprato il biglietto per quella partita, alle televisioni e al pubblico delle televisioni che paga l'abbonamento, agli scommettitori che magari hanno perso perché tu ti sei venduto la partita o ti sei comprato la partita. Insomma, il danno è enorme, danno anche l'immagine nei confronti del mondo del calcio. Se tu cominciassi a far pagare realmente un decimo, un centesimo, un millesimo del totale del danno prodotto da una del genere, la gente non c'è più. Questo dovrebbe valere anche per chi ha truccato partite per fini di scommesse. Poi però vedi la gente si innesca questo meccanismo strano, la gente li vede ancora in campo e dice allora dove stiamo andando, perché questa è la verità. Ragione, guarda, Piero Tarecchio che diceva prima una frase a effetto, non è ancora nato quello, sì, non è, mondo, ci sono miliardi di persone che seguono il calcio, non è ancora nato una persona che lo possa distruggere. Sì. Ha ragione, cioè, il calcio ha una forza di autoalimentazione. Io guarda, penso che sia un fenomeno sociologico come ce ne sono pochi al mondo. Ma sicuro. Poi non dobbiamo dimenticare una cosa così, che inchioda tutti i continenti, tutto il mondo, in occasione di Champions, del Mondiale. Certo. È una roba pazzesco, non dobbiamo dimenticare mai quanta gente c'è intorno al calcio e quanto denaro gira intorno al calcio. Pierluigi, ti saluto, c'ho il GR, ci sentiamo domani. Ti ascolto. Baci, ciao. Baci. Ciao. GR, poi torniamo insieme e parleremo di mercato, non quello delle partite comprate e vendute, quello dei calciatori, il normale calcio mercato. Ti aspetto. È sicuro? 100%? Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Tutti convocati. Poi ci sono gli ascoltatori, non sono mai contenti. Che palle questo calcio, parlate di basket. Che palle questo basket, parlate di calcio, parlate di Formula 1. Parliamo di tutto, ragazzi. Stasera c'è gara 6, finale scudetto. E domani naturalmente parleremo di questa meravigliosa serie di finale tra Reggio Emilia, che ha il primo dei due match ball, e Sassari. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. La mia domanda su Sarri è questa, Carlo. Senza andare troppo lontano a Sacchi, ma se noi prendiamo l'esempio di Conte e anche di Mazzarri, questi qua sono passati dalla provincia a grandi squadre a circa 40 anni. Se Sarri è così bravo, la mia perplessità è perché ci arriva dopo 25 anni di allenamento? Cioè, già 56 anni, non è che allena da ieri. È emerso. Che c'è tutta questa bravura. Io ho questa la perplessità, non nell'uomo. Sì, sì, Francesco, ma è una perplessità legittima. Ha fatto una lunga gavetta. Questa è stata la prima stagione in cui era sotto la luce dei riflettori del massimo campionato. Ha fatto molto bene. Proporre un calcio molto interessante. Non ne farei una questione di anagrafe, sinceramente. Perché è arrivato tale? Perché capita di. Capita in tutti i settori di trovare il treno giusto, e non sto parlando di quelli di Catania, di trovare il treno giusto più in là con gli anni. Maurizio, Vicenza, buongiorno. È una mia personale considerazione. Sì. Sarri è una scommessa con paracadute. Se va, ha vinto una grande scommessa. Se non va, c'è Conte pronto, perché il mercato lo sta facendo Conte. Non c'è niente da fare. Questa è la mia considerazione. Tutti italiani, molti più italiani, meno stranieri a Napoli, è un preludio a Conte. Ah sì, allora sa cosa faccio? Sa cosa faccio, Maurizio? Io giro questa sua considerazione a Carlo Laudisa, inviato della Gazzetta dello Sport, che di mercato sa tutto. Ciao Carlo. Ciao. Hai sentito cosa ha detto? No, l'ho sentito, no, è intrigante come idea. Mi verrebbe da dire che però Valdicioli, per esempio, che era stato selezionato da Conte, poi è stato accantonato. Allora questa regia è un po' contraddittoria. Io no, sinceramente non vedo Conte verso Napoli, perché Conte sarà l'europeo, ma ha avuto altre opportunità, no? Sì. Lo sappiamo bene, il Milan ci ha pensato fortemente, e lui credo che abbia resistito vedremo poi come andrà a finire, no? Quindi in situazione ci sono anche altre società che potrebbero cercarlo. Io quindi non è l'uomo ombra, non è l'uomo ombra del Napoli. No, rispetto all'altra considerazione del radioascoltatore precedente, se Sarri è arrivato tardi, forse è anche colpa nostra, non solo colpa sua. Se c'è un rischio per Sarri a Napoli, non è quello tecnico. Semmai, se lui sarà pronto dopo anni e anni da comprimario a reggere la pressione di una piazza importantissima come quella di Napoli, sì, quello poi, può essere il rischio. Poi sai, se ne parlava anche prima con Giovanni Galli, c'è il fattore tempo che è determinante. Esatto, Galli diceva, lo conosco bene, spesso con le sue squadre parte piano. A Napoli lui di tempo non avrà, non solo contrattualmente perché ha un anno solo, ma non avrà, non avrà il tempo, dovrà partire forte e fare subito bene, non, il tempo non gioca a suo favore. E invece la cosa un po' strana, sempre sulla linea italiana della scienza di Laurentiis, che va sempre contro la teoria di Conte, è che Giuntoli, il direttore sportivo, che invece ha firmato un contratto di 4 anni, anche importante, ha fatto strade diverse da quelle di Sarri, sebbene sia toscano, quindi lo conosca, ma non c'è un'attinenza tra i due, quindi io vedo invece una scelta a 360 gradi di De Laurentiis, che ha preso tra virgolette il meglio del vento nuovo azzurro. Sì, sono d'accordo, mi piace molto questa lettura. Carlo, invece, è il giorno dei saluti e baci, come scrive Dario dal camion, per Pirlo e per Tevez alla Juventus. Ebbene sì, si chiude una pagina romanticamente importante, perché comunque Pirlo in 4 anni ha vinto tutto ed è l'emblema di questa squadra, dopo essere stata la bandiera, non possiamo usare questo termine, però il Milan ha lasciato una traccia non meno importante, quindi è un giocatore che va a fare anche due esperienze nella Major League Soccer, dove lo aspettano Giovinco, dove ci sono tanti altri campioni. Giocherà con Lampard, per esempio, contro Lampard a New York direttamente. Da quello che posso capire, non subito, perché lui comunque le vacanze le farà. Lo aspettano i Ibiza per il momento, quindi per ora niente Stati Uniti, quindi se la prende con calma, ha bisogno anche di un po' di riposo evidentemente, e purtroppo evidentemente chiude questa pagina. Però va dato atto anche alla Juve di una riforma importante. Sì, certo. Nel momento di apoteosi, nel momento della finale di Champions League, comunque con fattori differenti cambia, ringiovanisce. Sì, certo. E punta sui giovani, ed è quello che serviva, quindi il coraggio di guardare avanti e di puntare su nomi nuovi. E a differenza del Napoli, la Juventus invece ha spazio e tempo, perché può permetterselo, colmare il gap che c'è tra la Juventus e le altre squadre, quantomeno il campionato italiano in questo momento, e in una estate sola, secondo me è impossibile. Dunque, la Juventus... Io quando ricordo i grandi anni, gli anni 90, in cui c'erano le superpotenze Juve e Milan, l'Inter faceva con Moratti comunque grandi progetti, e le romane, perché diverse, gli abitavano tanti denari per vincere gli scudetti, in quegli anni Juve e Milan in particolare la campagna acquisti la facevano in primavera, e a questo punto della stagione era già tutto finito. Sì. Vuol dire che c'era la grandezza di club che facevano il programma. Adesso invece purtroppo negli ultimi anni siamo stati figli degli espedienti, nel senso di doversi accontentare di last minute, invece la Juve è l'unica che sta seguendo una traccia, e certo, merita Marotta e Paradisi di aver seguito questo posto. Probabilmente anche l'unica che se lo può permettere. Ha parlato Llorente anche, sempre sul fronte Juventus, del suo futuro, sentiamo. In questo momento sì, non devo parlare con la società, vediamo cosa mi dicono anche loro. Si è parlato di Monaco, di alcune soluzioni, ecco, soltanto... No, non so nulla, veramente, non so nulla. Vado, mi sono sposato, vado di via di nozze, non penso in un'altra cosa adesso. Dove andate di bello? Facciamo un bel giro al mondo, facciamo. Quindi vacanze anche per Llorente, l'impressione che sia in uscita, dall'Italia e verso Monaco, e anche Destro che ha preso quella strada, no Carlo? Sì, sì, ormai siamo ai dettagli, 15 milioni alla Roma, vedremo lui quanto sta per l'ingaggio e quindi Llorente evidentemente deve cercare destinazione altrove perché comunque la Juve l'ha messo sul mercato. Al ritorno agli viaggio di nozze credo che dovrà fare anche un cambio di abitazione, di residenza. Sì, dovrà fare un bel cambio di residenza. Ha parlato Vlahovic, altro argomento fondamentale di questo momento del mercato è quello del, del Milan con i suoi buchi nell'acqua, Vlahovic. Sono molto fiducioso perché quando tu sei Milan, diciamo la sua storia, non è che ti puoi, non puoi volare basso e adattarti a normalità, ma sei costretto o comunque hai obbligo di pensare in grande, di essere ambizioso e di centrare grandi traguardi. Noi adesso faremo di tutto per riportare Milan a, diciamo, ai, ai posti, a, a quello che li aspetta e quello che si è meritato durante tutta la sua storia. Carlo Laudisa, tra il dire e il fare c'è di mezzo un mercato che fino adesso è stato disastroso. Sì, sì, pari allo zero, no? In questo momento. Perché a parte il giovane José Mari, Mauri bloccato dal fallimento Parma, un quadriennale per lui, si vede poco e poi c'è questo sabato nero. L'addio forzato a Jackson Martinez e al Condobiane l'azzurro, quindi sono due ferite ancora non rimarginate. Per ora paga Lenio Lucas perché è stato, è rimasto il suo aereo privato, adesso sì, farà viaggi super privati, non per il Milan. Non per il Milan e non accanto a Galliani con i selfie, insomma. Sì, basta selfie, basta viaggi. Senti, dimmi una cosa, Higuain lascerà Napoli, Cavani tornerà? Guarda, Cavani secondo me no, perché lì c'è il problema della, della convivenza con Ibrahimovic. Però nel suo viaggio a Doha con Raiola, Ibra ha stretto un nuovo patto con lo Sceicco, anzi con l'Emiro, scusate, e poi il Milan può aspettare che il PSG tra qualche settimana magari riesca, che so, andare avanti nel sogno che Cristiano Ronaldo. Quella secondo me è la strada che può tenere aperta la possibilità di Ibra al Milan. Per quel che riguarda Cavani, per i numeri, e io credo anche un po' per le caratteristiche, perché Milan comunque sta cercando, sogna Ibra perché sa quanto Ibra sposti non solo in termini di gol ma soprattutto anche in termini di personalità e di tasso, certo, tecnico, e poi in maniera immediata, cioè non si rischia niente con Ibrahimovic, no, cioè sai, no, già quello che ti dà. Però diciamo che Ibra può essere l'icona di un mercato ancora in cerca di un'identità. Si parla molto di Witzel a centrocampo, vedremo se sarà effettivamente lui il rinforzo che arriva al posto secondo piano. Un'ultima cosa, l'Inter. L'Inter che invece sembra aver appena cominciato, non so esattamente da dove. Ed è già finita. È già finita? No. Salà o Quadrado? Io direi se è più Salà che Quadrado. Per Quadrado vedo degli scenari molto più economicamente importanti, nel senso che perché l'Inter può pensare a Salà? Fermo restando che stasera poi gli agenti dell'egiziano effettivamente rompano la Fiorentina, perché la Fiorentina comunque lo vuole trattenere. C'è un discorso economico, lui adesso a Firenze guadagna 1,8 milioni. L'Inter, la Juventus, un po' tutte le hanno offerto 3 milioni, certo, al giocatore del Chelsea, però c'è questa opportunità del prestito con obbligo, diritto di riscatto in caso di sostituzione della Fiorentina, però quindi ecco perché l'Inter può andare più su Salah, mentre eventualmente io vedo che può essere la Juve più su Quadrado, nel momento in cui effettivamente il Chelsea dovesse mettere le mani su Griezmann, sì, il francese dell'Atletico Madrid, sì, c'è sempre l'Atletico in mezzo, sì, sì, guarda caso gli spagnoli anche loro sono sulle tracce di Salah. Sì. È un bel intrigo quello dell'Inter, poi c'è chi continua a pensare che alla fine andrà via Icardi, io non credo. No, per ora Wanda è tranquilla. È tranquilla, bene. Allora se Wanda è tranquilla anche il ragazzo e possono e stare con loro e possono stare no, tranquilli di se mai ha fatto le battute. È chiaro che adesso Fassone e Austria dovranno trovare le risorse per supportare certo. nuovi acquisti e per legittimare quelli appena conclusi. Quindi vediamo chi andrà via fra Kovacic, Hernanes, Guarin. La lista è bella lunga, quindi ecco perché facevo la battuta iniziale, perché secondo me adesso o il mercato dell'Inter si ravviva subito per Salah in caso di rottura con Viola, oppure bisogna abituarsi alle lunghe attese, perché per comprare bisognerà finanziare. Certo, certo. Grazie Carlo, grazie buon lavoro, a voi, grazie, ciao, grazie davvero ciao, Carlo Lardisa. Allora, io prima di tornare agli ascoltatori con grande piacere, 800240024, ci sono Rino da Modena e Alberto a provincia di Monza, vi faccio sentire invece la voce del nuovo portiere del Napoli, che poi non è il nuovo portiere del Napoli, ma è quello che c'era prima, cioè Reina, che è tornato. Il Napoli ha di nuovo le spalle coperte. Grazie. Inizia una nuova vita a Napoli. Grazie. Era quello che volevi. Grazie. Certamente. Grazie. Adesso vado al presidente. Sì. Grazie. Sì. Grazie. Con quali obiettivi, vai, Pepe? No. Vai. Pepe, grazie, con quali obiettivi? Grazie. Crescere. Grazie. Sempre crescere. Mille grazie, sempre crescere. Questo è un grande acquisto per il Napoli. È inutile stare a dirlo quasi. Giancarlo Verona, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la convocazione. A lei, dica. Io vorrei sottoporre a voi una piccola riflessione. Allora, riguardo allo scandalo del Catania, se non sbaglio il presidente della Lega di B ha detto che i risultati non verranno falsati. Ora, vorrei chiedere ai tifosi, ai dirigenti della Virtus Entella, per esempio, che cosa ne pensano, visto che... se voi ricordate, negli anni 70 l'Hellas Verona fu retrocesso dalla Serie A alla Serie B per una telefonata del cui contenuto non si è mai saputo esattamente quale fosse, tra l'allora presidente Garonti e il centravanti del Napoli, ex del Verona, Clerici. Ecco, questa è la riflessione che vorrei sottoporvi. Grazie. La riflessione, che è un bel casino, perché qui si tratta di dipanare una matassa di cui abbiamo appena trovato un filo. Si tratta di scoprire le responsabilità individuali, si tratta di capire come, dove, quando si è consumato, in che modo, in che termini si è consumato l'illecito. Intanto io mi prendo le parole che abbiamo sentito prima del questore di Catania Cardona, che ha escluso coinvolgimenti diretti dei club cui appartenevano i tesserati che avrebbero preso la mazzetta per far perdere la loro squadra. Poi è chiaro che anche in questi giorni c'è già cominciato a parlare di difficoltà nella compilazione della lista dei partecipanti al prossimo campionato di B, e questo è un argomento reale. Allora, Rino Modena, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, dica. No, voglio dire che io sono tifoso del Modena e anche un po' dell'Inter, come il mio amico Leo Turrini, quindi ho già capito. Sì. A parte questo qua, voglio dire che la Serie B, io seguo molto la Serie B essendo tifoso del Modena, c'è qualche partita, come è saltato fuori anche adesso. Però il calcio è corrotto come una misura in cui è corrotto il paese. Ci sono alcune partite che sono corrotte, la maggioranza per fortuna no. Io non faccio nessun abbonamento, nessuna TV di quelli a pagamento, perché mi sembrerebbe lasciare i soldi un po' così. Io scommetto la SNAI in modo regolare e devo dire che mi dà qualche vantaggio sapere che c'è qualche partita non regolarissima. Cioè? Se fosse tutto regolare, io sto facendo una battuta. Però bisogna che prendiamo così. Purtroppo il calcio è un po' lo specchio del paese. Guardiamoli giusto e ma non, per squadre, sì, però, speriamo bene. Però Rino, non vale la pena di rassegnarsi, cioè non ci si può rassegnare al fatto che c'è un monte partite truccato, perché non è così. È chiaro che adesso No, ma per fortuna è più semplice scoprire questi imbrogli come stiamo vedendo, però non possiamo rassegnarci dicendo ok, lo specchio del paese, ci sono certi politici che sono corrotti e certi che sono persone per bene, certe partite che sono buone, altre che sono farlocche. Non è un ragionamento che porta da qualche parte, secondo me, questo. Alberto, buongiorno. Carlo, buongiorno, grazie della convocazione. Buongiorno, grazie a lei. Sto sfoggiando la maglietta dell'anno scorso di tutti i convocati. Grande. Grande, sì, veramente. Allora, volevo solo commentare con te, ma che bella pallacanestro stiamo vedendo in queste serate qua. Che gran bella pallacanestro. Io non so se Milano e Venezia fossero andate loro in finale, avremmo visto questo basket qui così bello. Ma stiamo vedendo una, secondo me, una serie di finale, ma l'ha scritto anche oggi Luca Chiabotti o nei giorni scorsi, che ci sta facendo riscoprire il profumo di una certa pallacanestro, no? Cioè, non, ovviamente sono squadre senza palmarès, sono debuttanti al ballo dello scudetto. Dovunque vada questo scudetto sarà una prima volta storica, però se a qualcuno piace questo sport anche da un punto di vista estetico, direi questa serie di finale è certamente la più bella degli ultimi anni. Ovviamente mica male anche quella dell'anno scorso tra Milano e Siena, con grande merito di Siena più che di Milano l'anno scorso, e quest'anno insomma è uscita dal cilindro la sorpresona di questa serie di finale, ma con due squadre che non hanno che hanno meritato tutto quanto hanno fatto fin qui, perché sono due squadre molto diverse. L'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, Sassari è più elettrica e più elettrizzante forse, Reggio Emilia è una squadra più classica e costruita in una maniera meravigliosa. Stasera potrebbe chiudersi il discorso scudetto, potrebbe chiudersi il discorso scudetto in caso di vittoria di Reggio Emilia, altrimenti volentieri andremo ad una gara 7 bella decisiva che ci farebbe morire dalla libidine. Basta Giorgio De Luca, va bene. Il nostro autore dice basta. Pappagallo ha detto stop. Allora, Giorgio De Luca è il nostro autore, Giovanni Melchiorri in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Vi ricordo, la prossima settimana, per tutta la settimana, saremo, non solo noi, ma tutti i programmi di Radio 24, a Expo al padiglione Cibussa Italia, e vi aspettiamo lì. Ciao. Me ne posso andare? No, non la faccio più, già caldo.